piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Buonasera fratelli, buonasera sorelle, buonasera, benvenuti a questo Festival di Sanremo. Giù, state seduti, si sieda. Buonasera. Andiamo al sodo, perché ormai Fiorello l'avete sentito da stamattina non so quante volte. Di Fiorello è una delle persone di cui assolutamente non si può dire mai male. Tutti Fiorello, ha fatto scompisciare, è stato il padrone del festival appena entrato. Ma oddio, vestito da prete, a me non mi ha fatto ridere per niente. Era scontato, era Fiorello che fioreleggiava, però naturalmente Fiorello ha avuto in mano il festival al primo istante. Detto questo, il festival a me è piaciuto. È la prima volta, dico, in 40 anni di onorato lavoro in cui tutti gli anni prendo a staffilate, prendo per il culo, dileggio e denigro il Festival di Sanremo, lo sono visto tutto, anche le canzoni. Mi è piaciuto perché aveva un senso profondamente apocalittico. L'ho detto ieri sera nel gruppo degli appassionati di Meloga Parlato, con cui commentavo in diretta. Era il festival del mondo sull'orlo del baratro. Non a caso questi anni 20 sono cominciati sfigatissimi, con una sorta di pestilenza che turba tutte le coscienze. E cosa si fa durante la pestilenza? Quello che facevano uomini e donne del Decamerone: si riuniscono in un bel posto, folleggiano e zozzeggiano. Ecco, quello è stato il festival delle libere zozzate. Il Festival di Sanremo è quanto c'è di più controllato. Mi hanno detto che in sala stampa i giornalisti dovevano riempire un modulo in cui si impegnavano di non parlare coi politici, non dire nulla. C'è un sistema di controllo terribile. Ma è un momento talmente vorticoso e singolare in cui la RAI, il servizio pubblico, ha un presidente ipersovranista, che è Foa, ha un direttore di rete di Rai 1 che è esattamente il contrario, Coletta, che è un ragazzo scanzonato, giovane, privo di ogni pregiudizio. E quindi in questa sorta di vacatio legis totale, di confusione, probabilmente non sapevano a chi dar retta, chi comandava, così, è stato il festival più anticonformista che c'è stato. Su due fronti. Un fronte dell'impegno civile. Voi direte quello, io ero molto prevenuto, cioè adesso parte la Gebrai col suo pippone. No, ha fatto un pezzo da teatro fantastico. Ha tirato fuori le sue viscere doloranti, ha parlato della madre stuprata, che si è suicidata a seguito delle violenze subite, si è data a fuoco, ha parlato di se stessa, ha parlato in maniera esplicita di quello che è un problema che oggi la linea comune, la volgata, ho visto titoli di giornali, no, ma sono più gli uomini che vengono picchiati dalle donne, uccise dalle donne. Ecco, c'è un'idea fortemente macista che dovrebbe essere in questo moto limaccioso di reazione a ogni processo di civilizzazione che abbiamo compiuto con grande fatica anche noi uomini, soprattutto noi uomini, per dire che in fondo, sai, il femminicidio non esiste, è un arzigogolo lessicale. Ecco, la Gebrai ha fatto vedere che in realtà, raccontando la sua storia, qualcosa del genere esiste. E poi il salto mortale nell'altra direzione, la totale trasgressione, la follia più folle, Achille Lauro che dice: io faccio San Francesco. San Francesco, figuriamoci, parte Fiorello vestito da prete, fa l'occhiolino, tutti contenti, i parroci vanno a dormire tranquilli, comincia bene questo festival, figliuoli, le famiglie possono guardarlo così. Arriva Achille Lauro che fa un'esibizione fantastica, scende a piedi nudi con tutto un mantello, sembrava il Mago Telma, così si toglie il mantello e sotto c'era il pacchetto bene in evidenza, una tutina glitterata di Gucci trasparente. E ha un po' sfinocchieggiato, simulato naturalmente, con un altro. Ha fatto uno spettacolo in cifra queer, in cui giocava sull'ambiguità, ma in realtà sa benissimo che il genere femminile dai 9 ai 90 anni in quel momento faceva la bavetta per lui. Quindi è fantastico, ma infatti ha ottenuto lo scopo. Oggi non si parla altro di Achille Lauro con la tutina. Basta una tutina glitterata e si fa il triplo salto mortale. C'è anche gli scandalizzati. Il presidente dell'associazione consumatori, Udicon, un'altra associazione consumatori che escono su come i funghi, scandalizzato davanti a milioni di telespettatori, tra cui tantissimi bambini, è andato in onda uno spettacolo indegno. Stamattina una collega mi diceva che la figlia di 9 anni non vedeva l'ora di vedere Achille Lauro e se lo sarà rivisto 100 volte. Una bambina di 9 anni non vede malizia in questo. La malizia non c'è innanzitutto. C'è un occhieggiare, una sorta di fluidità che oggi è nell'aria, fa parte dell'arte, fa parte del pensiero, della libertà. Beh, Achille Lauro ha fatto gol. Oggi si parla soltanto di lui. Ha offuscato tutto e tutti. Con tutti gli sforzi lo offuscati. E questo, il festival dell'Apocalisse, il festival della libertà, il festival di quello che si può fare soltanto quando si è sull'orlo di una catastrofe, mi è piaciuto molto. E questo sorprenderà alquanto Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Io non mi riprendo, cioè ho sentito questa cosa e sono assolutamente sotto shock, Gianluca. Senti, sono rincoglionita, ma sono visto tutto e mi è piaciuto. Assurdo, mi è piaciuto. No, io non come sono lo, come senza te lo parole dalla tua... E come te lo spieghi? Ma guarda, intanto devo riprendere lucidità dopo questa tua affermazione, perché davvero mi sono seduta un attimo, perché davvero non potevo davvero aspettarmi questa cosa. Forse sei stato davvero folgorato sulla via di Achille Lauro, non so se è stato questa epifania. Ma mi fa un baffo quella robettina lì, non fa né caldo né freddo. Ma l'insieme, mi ha dato l'idea. Con la tutina. Basta chiedere, andiamo a trovare, no? Ho un set di tutine, figurati. Leopardate, con la rete, con gli evidenziatori di vario tipo e varia forma, c'è tutto. Detto questo, però, scusa, mi dai atto di un fatto? Che in questo momento in cui, diciamo che la guida politica ferrea dell'azienda di servizio pubblico è un po' incerta perché si stanno assestando. Quindi quella sorta di rigore che è sempre stato imposto a Sanremo, le trasgressioni di Sanremo erano sempre molto controllate. Hanno un po' lasciato la corda, perché guarda che anche il monologo che ha fatto la Gebral era fortissimo, e nel sentire generale, nel clima generale, nel volersi comunque tenere buoni tutti, è stato un po' forte, molto forte. Io l'ho apprezzato, a me è piaciuto, ma un grande gesto di coraggio. E anche Achille Lauro è andato oltre tutte le possibili citazioni. Vuoi mettere la farfallina di Belen, che era una stupidaggine, capito? Non si vedeva niente, tutti a immaginare la farfalla sotto la farfalla. Questo è stato un gesto forte. Cioè, questo è San Francesco, ti rendi conto? San Francesco vestito come, che ne so, mucca assassina, roba del genere, capito? Non è fantastico tutto questo. Allora, la farfallina di Belen era una provocazione, vabbè, che avremmo potuto fare tutti in qualsiasi modo. Quella di Achille Lauro è stata una performance talmente a sorpresa che nemmeno Amadeus sapeva nulla, e queste cose possono davvero accadere, hai detto bene, in un momento in cui il controllo... Sai che sì... sai con me che è stata una vacatio legis a Sanremo, nemmeno un respiro passa inosservato e preventivamente filtrato dagli autori, dai commissari politici, dai direttori, vice direttori. Coletta è stato un grande, ha lasciato la corda libera ai suoi. Sì, soprattutto, allora, Coletta è arrivato da pochi giorni, veramente da 3 settimane, quindi deve ancora capire come si guida la macchina, e proprio nei momenti in cui si allentano le maglie possono succedere o i peggiori disastri o delle chicche. Allora, il povero Amadeus, che partiva sfavoritissimo, alla fine l'ha portata a casa grazie anche al fatto che, insomma, si è giocato il tutto per tutto. Cioè, il monologo di Roula Jebreal rischiava di essere veramente una martellata insopportabile, perché, dai, dobbiamo dirlo, il rischio era altissimo. Ero prevenuto, fra l'altro si era messa un fard marrone per accentuare appunto la diversità, che normalmente non l'ho mai vista così scura, e dava bene. Però è stato forte, alla fine è stato forte, era veramente commossa, a meno che sia una... Parlava della madre, cioè parlava di sua madre, non è che parlava... Una cosa non aveva mai detto... Cioè, ha tirato fuori le budella e l'ha fatta vedere al mondo. Non è una cosa tanto di cappello, veramente. Uno poteva dire, ci aspettavamo il discorso, il pistolotto politicamente corretto. Qualcuno stamattina l'ha anche scritto sui giornali. Esagerazione. Ma che esagerazione? Ma scherzo, è una testimonianza forte. Deve far riflettere, secondo me. No, è vero, ci sono stati dei momenti in cui i protagonisti si sono messi a nudo, ovviamente Roula Jebreal, che ha raccontato questa storia devastante, ma pensa anche in maniera più lieve a Tiziano Ferro, che non riesce a cantare Almeno tu nell'universo, perché alla fine si mette a piangere. Piange con questa canzone di Mia Martini, male, mi sembra. E ci rimane male, sì, e ci rimane male perché dice ho fatto un pasticcio, era proprio... deluso per essersi commosso, quando invece non era una performance artistica, ci aveva davvero messo il cuore. Quindi secondo me, sentiamo un attimo, cui... Marta, facciamo sentire, viene detto che tutti abbiano visto Sanremo, facciamolo sentire un attimo, che è un momento che vale la pena di commentare. Che palle! No, ha rovinato tutto. Grazie orchestra, mi avete... voglio ringraziare veramente l'orchestra, siete magici. Scusate. Mi dava l'impressione, Marta, che quel senso affettato di Sanremo, tipico anche quando si lambiscono, diciamo, degli orizzonti indicibili per Sanremo, qui è stato oltrepassato tranquillamente, serenamente. Anch'io ho prevenuto su Amadeus, Amadeus ha fatto perfettamente il suo posto, non ha prevaricato nessuno, è stato carino, gentile, ma anche le giornaliste che hanno fatto scherzosamente il ruolo di vallette, di presentatrice, sono state perfette. Vuoi mettere la Leotta? La Leotta, che il mondo conosce per il giro vita, il giro fianchi e il giro tette, è stata una brava signora, bella signora, che ha fatto un discorso serio con la nonnina in primo piano, che, con la lacrimuccia, che la nonna mi dice sì son figa però renditi conto che dopo un po' mi si ammoscia anche a me, quindi naturalmente dovrò pensarci, cosa che non pensava, però è stato bello. Sì, allora devo dire che quello mi ha convinto un filino meno, solo perché secondo me il discorso mancava un po' di logica, perché lei voleva dire che la bellezza svanisce col tempo, che e dunque la bellezza conta meno di altre cose, ma è finito con lei che diceva ma torniamo bella, dopo questo rendering che la rendeva anziana, perché se non fossi così bella col cavolo che sarei su questo palco. Cioè, però non è che ha detto sono nata così, non è che ha detto sono nata così, sono diventata bella, ha detto. Quindi è chiaro che come diventi bella ci può diventare all'infinito e basta darsi una mano e aiutarsi. No, no, ma infatti ragazzi io sono favorevolissima, ho visto cose molto belle, anzi prenoterò degli appuntamenti appena torno. Tra l'altro ho appena visto dal vivo e da vicino Sabrina Salerno, che questa sera salirà sul palco, e qui siamo a livelli di spettacolo puro. Secondo me la donna matura, qualcosa di favoloso, qualcosa di favoloso. Io mi aspetto molto da lei. La categoria cliccata su porno è MILF, è perfettamente lei in questa categoria in questo momento. Sì, direi proprio letteralmente, sì. E poi vabbè, questa sera, allora ieri sera Albano e Romina con la povera Romina Junior, vittima sacrificale del padre che le prendeva il palco. Si è cantato anche il playback, questa però sta cialtronata se la potranno anche risparmiare. Sì. L'inedito in playback no. Sono d'accordo. Invece sentiremo stasera Ricchi e Poveri. Senti, parliamo un po' di risumazioni, perché abbiamo parlato delle novità, parliamo anche delle mummie risorte. Rita Pavone, che effetto ti ha fatto? Ragazzi, allora, intanto se tu ti butti in ginocchio poi riesci a tirarti su come ha fatto lei, io no. Lei è veramente una specie di robot inossidabile, ha una voce pazzesca, cioè un pezzo da Bon Jovi, è veramente bravissimo. Ovviamente sconta il fatto che insomma la sovranista eccetera eccetera eccetera, però non le si può dire niente. Se così fosse stato era un festival molto molto di tono aperto, non si è proprio intuito. Anche Achille Lauro ha cantato Me ne frego, ma tutto sembrava meno che un ardito col pugnal tra i denti vestito in quella maniera, quindi alla fine è stata l'antitesi quello che si temeva di un festival che fosse tutto basato su l'italica stirpe che doveva cantare l'orgoglio della nazione. È stato molto colorato, diciamo, molto arcobaleno questo festival. Sì, forse diciamo che la costruzione dell'immaginario era preventiva, cioè si è scritto e si è detto prima ancora di sapere nulla. Avevano tenuto molte cose effettivamente segrete e secondo me un po' di stupore ce l'hanno avuto tutti. Ma tu Marta, tu già l'hai detto prima al giornale radio, però ripetiamolo per chi adesso ci ascolta meglio, ha fatto il botto e questa alla fine è l'unica cosa che conta. Rispetto agli altri festival come si colloca? Allora, ripetiamo che questa cosa poi la dico tutti gli anni, il dato della prima serata è importantissimo, perché se va male la prima serata il festival molto difficilmente si risolleva, quindi questo è il dato che conta. Ovviamente poi questa sera ci sarà il calo fisiologico, ma diciamo che ha fatto il 52,2% di media tra la prima e la seconda parte, superando l'anno scorso di 3 punti, ma non solo, cioè per andare a una media così alta bisogna andare al Festival di Bonolis, quindi torniamo indietro di parecchi anni. Allora, se li guardiamo in termini assoluti, i numeri si stringono, perché rispetto a tanti anni fa, anche solo ai Festival di Bonolis, quella che si chiama la platea televisiva diventa più piccolina, semplicemente diciamo perché ormai la gente ha tante altre cose. Degli abbonati in prima fila alla fine schiatta, perché alla fine sono un po' attempati, questo si sa, alla fine qualcuno lascia lo spazio. E anche la televisione è meno centrale. Diciamo che non c'era Netflix, non c'era Amazon Prime ai tempi di Bonolis. Oggi c'è una scelta abbastanza più ampia, no? Esatto, esatto. Pronto? Pronto? Marta Cagnola è scomparsa, è stata risucchiata. Sì, Stai andando e venendo, cioè c'è una sorta di oscillare della tua voce. Sei in una situazione precaria? Niente, ci sono. Facciamo in tempo a concludere. Ecco Marta, eccoci. Lasciate le attese per stasera. Poi dopo chiameremo gli ascoltatori a raccolta. La mia personale attesa per stasera, ovviamente, è quella di vedere Marina Occhiena sul palco dell'Ariston insieme ai Ricchi e Poveri. La seduta spiritica tira sempre, diciamo la verità. Vabbè, ma dai, poi c'era sotto una storia di corna, cioè io me la ricordo, quindi le corna perdonate dopo 40 anni secondo me sono qualcosa di bellissimo. Ma ne parleranno, se parlano delle corna devo dire è un grande Amadeus, che ovviamente abbiamo superato ogni possibile aspettativa. Pensa stasera Chiorello potrebbe tirarlo fuori. Insomma, con chi se la fece Occhiena? Sì. Con l'altro ricco e povero? No, con il compagno della Brunetta. Ah, della Brunetta, sì, che si arrabbiò. E stasera c'è anche la Brunetta. Certo, è questa stasera, la notizia. Quindi faranno a capelli la Brunetta e l'Occhiena. Finalmente, dopo 50 anni. Dovrebbero fare pace in teoria, non lo so. Per questo c'è molta attesa. Vediamo, se no magari si strangoleranno con gli accessori che si hanno a una certa età. Va bene, grazie mille, grazie Marta. A prestissimo, ti riposerai, Sanremo non si dorme mai, quindi avrai 5 giorni, secondo me, da incubo, ma saremo tutti ad attendere speranzosi, fiduciosi ed entusiasti le tue cronache. Grazie anche ieri di essere stata nel gruppo Melog ha parlato, perché è stata una grande epifania quando sei scesa tra noi che commentavamo in diretta su Telegram Sanremo. Allora 800 24 00 24, senza Marta Cagnola che va a fare il suo dovere alla conferenza stampa della prima giornata del 70° Sanremo, e tra poco tocca a voi, mi direte cosa ne pensate, che avete visto, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Melog. Sì, noi sì. Siamo soli qui, noi sì, soli qui. Fai di me quel che vuoi, sono qui. Oh, faccia d'angelo, David di Michelangelo. Occhi ghiacciolo, dannate cose che mi piacciono. Certo che si era fatto un'idea di San Francesco, ha un po' rivisto i suoi parametri. Questo è Achille Lauro, voi potete chiamare all'800 24 00 24, alla fine sarà l'oggetto, l'argomento di cui più si parlerà. Io sto vedendo in questo momento i commenti a un articolo che ho citato poco fa, con tutte le prese di posizione indignate di tutte le famiglie associate, i consumatori associati, i genitori consorziati, tutta gente schifosi, infami, bastardi. Avete fatto vedere una cosa del genere, come se adesso si aprissero, che ne so, le porte del cielo, venisse giù l'angelo sterminatore con la sua spada di fuoco e tutti gli empi finiranno nelle fiamme insieme a Achille Lauro. Poraccia, ha fatto un'operazione intelligente, divertente, trasgressiva, non originale, perché diciamo roba del genere si vede negli ultimi 30 anni ampiamente, figuriamoci. Però l'ha fatto a Sanremo, ha sorpreso tutti, e diciamo che dopo 10 minuti già c'era il fotomontaggio di Amadeus con la tutina, capito? E tutti ci ridevano. Fa ridere, questa tutina diventerà un meme, passerà alla storia, come ancora della farfalla di Belen ogni tanto riappare, svolazza qua là, appiccicata con la faccia di qualcun altro. Vedete con la tutina, con il bacarozzo. Belen ha messo la farfalla. Achille Lauro ha giocato tutto sul bacarozzo, che diciamo che è la crisalide, è l'antesignano della farfalla. È stata un'operazione retroculturale. Dopo la farfalla si ritorna al baco che ha generato la farfalla. Questo era Achille Lauro. Laura, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Dunque, io l'ho visto e vabbè, un po' stupita, del resto Sanremo ogni tanto ci stupisce. Cosa l'ha stupita? Quello che se ne sembra che il Festival di Sanremo ci sia solo Achille Lauro. Beh, l'ha visto, ha avuto un palpito di folle nulla, passione. Nicoletti che non ha avuto un palpito di nulla, perché insomma, a me personalmente, ma io sono vecchietta, quindi e beh, che vuol dire vecchietta? Il senso estetico rimane. La rimembranza del Baco che fu rimane. Del Baco ce n'era poco, Baco, secondo me. Infatti, comunque, è un Baco, mica ho detto un pitone, un Baco. Diciamolo. Comunque mi è sembrato, allora, sì, però, molto diciamo, stravagante. Come tutte le rappresentazioni artistiche del mondo classico, sarebbe brutto mostrare un pitone. Aveva un bacchettino. Un bacchettino, giusto, sì. Comunque, vabbè. Scusi Laura, abbiamo fatto questa disquisizione. Qualcuno doveva dire alla fine, perché sennò tutti ci girano intorno. Parliamoci chiaro, vabbè. Lo dica Laura. Aveva un bacchettino. Il pacco non si vedeva. Infatti il pacchettino, abbiamo detto. Era un pacchettino. Accontentiamoci di questo. Comunque voglio dire, aver scomodato San Francesco con una canzone che canti Me ne frego. Insomma, vabbè. Secondo me la canzone non l'ha sentita nessuno. Laura, tutto fa spettacolo. La canzone, sì, se anche cantava. No, ragione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'elenco telefonico era uguale. Uguale. Però volevo dire questo: mi è sembrato un po' come Carmelo Bene. Ho avuto questa. Ho detto. Sembra Achille un po' Laura. Ha avuto questa, sai Carmelo Bene quando faceva le sue, sì, però, che non lo apriva nessuno, no? Era un altro livello. Certo. Lui era criptico, certo. Su un versante onirico, teatrale, giocava la figura, di colui però, che non c'è. Il popolino che guarda Sanremo. Però vede, non Carmelo capito, Bene, Carmelo ecco. Bene, quando diceva nel famoso Costanzo So, io non esisto, si alzò Roberto D'Agostino, che allora era un giovane provocatore, e disse: ma se non esisti, perché ti tingi i capelli? La stessa ragione. Lauro si mette la tutina, dice: sì, te metti la tutina, ma a sto punto potrei metterci sotto un fazzoletto, un cetriolo, qualcosa che desse un pochino più di sostanza. Comunque, al di là di questo, io sono una che ne ha visti tanti, perché buon per lei che ne ha visti tanti, io mi fa piacere. Resisto, sono una di quelle che resiste. Mi faccio le pagelline, mi piace la ma musica. Di che stiamo parlando? Scusi, Laura, non vorrei giocare sull'ambiguità. Di che stiamo parlando? Sul Festival di Sanremo. Ah, bene, ci hanno visti tanti, mi faccio le pagelline. Stavo parlando del Baco di Lauro, onestamente. Ah, certo, vabbè, ma quello vabbè, chiudiamo. Vabbè, si è aperto un argomento, si può. Chiudiamo la parentesi, parliamo adesso dell'aspetto artistico. Quindi, ecco, artisticamente le è piaciuto. Va bene, fa piacere. Sì, tanta bella musica, più che parole. E vai a vedere, prima serata, vediamo. Tanta bella musica, secondo me, più che parole. Poi. No, aspetta, devo parlare con qualcun altro. Laura ha detto tante cose. Mi scusi, mi diverto con lei, ma sentiamo Roberto. Roberto, a che parere? Roberto, come la pensa? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, praticamente io ho 51 anni. Niente, io non ho mai visto Sanremo. L'ho visto appena sposato, un paio, due, tre anni praticamente insieme a mia moglie, e poi mi sono reso conto che le portava male, che era meglio non guardarlo. Ma no, ma Sanremo non è più un'attività canorica. Ma canorica non è mai stata, però diciamo, l'ha visto una volta, come fa a giudicare 70 no, edizioni? No, ho visto 2-3 anni, niente, non mi è mai piaciuto, perché praticamente si va sempre a parlare di politica. Quest'anno non si è parlato di politica. Sì, come lo, ma Fiorello subito le battute. Che battuta fa? Non me le ricordo, che cosa ha detto? No, io seguo voi da questa notte praticamente. Ha solo ironizzato un po' sulla scissione delle sardine, ma che è politica, non sono politica no, le sardine. No, ma non è politica, cioè sempre solite battute, cioè ben venga il personaggio. Ma vedi che non se ne ricorda manco una, Roberto, se non se ne ricorda manco una non erano efficaci. Sì, sì, come no, anche quello del Movimento delle 5 Stelle ha fatto la cosa battuta sul adesso non e no, non questo è, cos'è? È un peccato, non si può fare una battuta sul Movimento delle 5 Stelle. No, ma alla fine sempre sul diciamo su quel lato, cioè non avete fatto sentire una canzone di Sanremo, cioè lei ve le dice a questo punto uno dire e allora il PD parliamo di Bibbiano, allora già che c'eravamo, quella deve essere la risposta. No, cioè lasciamo perdere tutto. Deve invitare un comico e magari mette una battuta, cioè comico, ma non sempre le solite cose sul conduttore, poi si parla sempre di polemiche. Cioè quelle belle battute una volta, tipo i due che si svegliano dopo il viaggio di nozze, si vedono alla finestra, dice come va mia moglie sul letto che fuma, queste belle battute che facciano ridere. Guarda, non lo so. Io sinceramente, siccome non lo seguo, però è da questa mattina che sento tutti i TG quelli vostri, perché dalle 3:30 che parlo. Vabbè, ho capito, Roberto, lei è un critico a priori, lei ha un atteggiamento urticante verso Sanremo, quindi è critico. Accetto la sua posizione. Marco, sentiamo Marco. Buongiorno Nicoletti. Io quest'anno difendo Sanremo, sarà l'ultimo anno della mia vita, perché non l'ho mai fatto in vita mia. Avanti, Marco. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Festival favoloso, nel senso che ci ha dato un meraviglioso specchio sociologico dell'Italia, ovvero, secondo me, un tripudio di anziani che non mollano la presa neanche se li bastoni, e contrappuntati da alcuni giovani tipo, come si chiama, Achille Lauro, sì. Quali non ha niente da dire, l'abbiamo già visto 30 anni fa con Marilyn Manson, i quali non hanno un cazzo da dire, che però fanno delle robe... così che hanno soltanto la produzione anche giusta, sì, di fare notizie. È un atto performativo quello. No, ma certo. È arte concettuale, non è che deve dire. Lui fa un atto e crea comunque un movimento, qualcosa di opinione. Vabbè, però il pacco in TV l'abbiamo già visto, le tutine l'abbiamo già vista, David Bowie in poi, cioè Marilyn Manson. Ma l'abbiamo già detto, basta Renato Zero senza dare tanto lontano. Figuriamoci. Bravissimo, Renato Zero, eccetera. Lo faccia da Borgataro, Renato Zero, bravo, capito? Bravissimo. Bravissimo, secondo me è così. Cioè, sì, però lui ha rilanciato, diciamo, nell'immaginario queer, comunque è come una sassata nello stagno, nessuno se l'immagina, ma ha creato un effetto. Ci fermiamo un istante. Melog. Mia madre Zacchia, che tutti chiamavano Nadia, ha perso il suo ultimo treno quando io avevo 5 anni. Si è suicidata. Dandosi fuoco. Ma il dolore era una fiamma lenta che aveva cominciato a salire, ad annerirgli i vestiti quando era solo un adolescente. Il suo corpo era qualcosa di cui voleva liberarsi. Era stato luogo della sua tortura. Perché mia madre Nadia fu brutalizzata e stuprata 2 volte. A 13 anni da un uomo, poi da un sistema che l'ha costretto al silenzio. Che non l'ha consentito di denunciare. Perché le ferite sanguinano molto di più quando non si è creduto. Questa è Rula Gebral nella sua rappresentazione di un dolore personale. Un'immagine forte, è servita. È un testo teatrale, però raccontato su un'esperienza autobiografica, reale, concreta. Si potrà dare una testimonianza su qualcosa che va comunque testimoniato. Ha scelto la strada più dolorosa e più difficile e più faticosa, che non credo sia stato facile, comunque sia facile a dire e meno facile a fare, raccontare l'episodio che probabilmente ha segnato tutta la sua vita. Lei aveva 5 anni quando la madre si è data a fuoco per delle violenze subite. Lo ha fatto davanti alla figlia che guardava e ascoltava la madre che parlava della nonna. Trovo sia stato un momento forte per il Festival di Sanremo, perché non è un'interpretazione, è l'attore che legge un testo, è una persona che legge un testo, che aveva una sua costruzione sicuramente teatrale, una sua recitazione sicuramente, ma se vuoi una cosa farla passare devi saperla leggere, devi saperla raccontare. Le parole non sono indifferenti, la scansione delle parole non è indifferente. Noi stessi che facciamo radio, lo facciamo istintivamente, senza pensarci, ma da come portiamo la voce, da come facciamo sentire l'emozione o il divertimento, la superficialità o la rabbia o quello che vorremmo reprimere o la nostra giornata faticosa, di quando parliamo è il senso comunque di saper raccontare qualcosa. Marco, buongiorno. Sì, ciao Nicoletti. Senti, noi proprio in merito al discorso qui della Gebrean. Ho saputo che, cioè, non vorrei sbagliarmi prima di esprimere le mie opinioni nello specifico, ma ha avuto un compenso non da poco, mi sembra. Sede che il suo mercato è quello che c'è di strano, perché la gente le fa le cose gratis. Allora, è cose gratis. Secondo la mia modestissima opinione, siccome appunto è un messaggio ed è un qualcosa di molto forte, molto sensibile, molto serio, io queste cose secondo me dovrebbero non farle gratis. Non sono affatto d'accordo. Andare a una festa di Sanremo significa fare un viaggio, significa prepararsi, significa prepararsi, si va a studiare e si fa pagare, certo si fa pagare, perché no? È un lavoro. Però, io ho chiamato per esprimere la mia opinione. A parte, mi sembra aver letto che parte del suo compenso lei lo devolverà comunque in qualche ente che si occupa appunto della salvaguardia delle donne violentate o oltraggiate. Ma poi questa sorta di fatto che la gente deve fare le cose gratis, io non sono d'accordo, perché deve fare le cose gratis? È un mestiere, saper raccontare una cosa è un mestiere, perché dovrebbe farlo gratis? Ha studiato, si è preparata, ha viaggiato, ci ha pensato, ci ha lavorato, ci ha messo le budella sopra, perché deve farlo gratis? In nome di cosa? Io non so se questa persona cosa fa. Ma lei cosa fa gratis nella vita? Mi scusi, Marco. Io non mando dei messaggi. Perché non è il suo mestiere. Il mestiere di una giornalista è mandare messaggi. E non è detto che dobbiamo farlo gratis. È un mestiere. È un mestiere. Secondo me, adesso poi il fatto che comunque una parte appunto lo devolverà per una certa causa, allora ti dà un senso. Scusi, ma allora perché Achille Lauro doveva farlo gratis, di far vedere il Baco? Faccia capire. Non voglio. Anche quello è un messaggio. Messaggio che io non entro nel merito, se no qua siamo qua un'ora. Se vuole dica il suo giudizio. Entrare, no, ma perché l'ha fatto dato fastidio vederlo? No, fastidio no, perché io non l'ho visto, però mi sembra abbastanza ridicola questa cosa. Io ho un'opinione un po' diversa. Se è una festival della canzone italiana, capisco certe sfaccettature, ma arrivare per fare audience a parlare di queste cose, a me è abbastanza ridicola questa cosa. Però è la mia opinione, per comunque, carità, rispetto ho il dato preciso, metà del suo compenso, almeno questo si legge sulle agenzie, andrà a una sua collega che è stata stuprata da ISIS, quindi mi sembra che comunque la sua parte, diciamo, di restituzione, se vuole, in azioni di responsabilità sociale l'abbia fatto, e non penso debba farlo gratis, che il suo tempo l'ha dedicato comunque a Sanremo, ha dedicato giorni a Sanremo, e il suo tempo deve avere un valore, perché è il suo mestiere e l'ha fatto bene. Piera, sì, l'ascolto. Buongiorno. Sì. Mi sente? Sì, certo, la sento. Allora, niente, va bene, a parte la performance, cioè la rivelazione, la testimonianza di Rula, non ho nulla da dire. È stata molto commovente e molto coraggiosa. Io però vorrei parlare del festival in sé per sé. Allora, su Achille Lauro non ha fatto nulla di eccezionale, perché io, fan sfegatata di Renato Zero, lo faceva 50 anni fa. L'abbiamo già detto, certo. Sì. Appunto, come Freddie Mercury. Quindi, allora, ha fatto bene. Io me l'aspettavo che stava... la cosa scioccante sarebbe stata magari presentarsi nudo, non in quella maniera. Anche perché forse l'ha fatto per non far ascoltare la sua canzone, che è veramente orribile. Sì, la canzone è inascoltata. Inascoltabile, quindi... No, però aspetta, lei ha detto una copiera, ha detto una cosa giusta. Se avesse avuto veramente coraggio, Achille Lauro poteva star tutto nudo. Si metteva magari una conchigliettina lì, una fogliolina di prezzemolo, e si copriva le vergogne. Però una tutina, Gucci, tutti hanno tutine, trasparente, color carne... Sono quelle che si mettono le signorine dell'avanspettacolo fine 800, quando si devono spogliare per non urtare la sensibilità. Ed è come la calzamaglia delle gemelle Kessler, alla fine. Devono far vedere le gambe, ma con la calzamaglia nera, in modo che sembrassero le gambe di un manichino. Sì, un po' non ha usato, ha ragione. A quel punto ha messo il mantello a piedi nudi. Levatelo, stai tutto nudo, come sta un modello, e rischia, ti coprivi il minimo indispensabile. Bastava una foglioletta, si copriva lì e basta, era fatta la cosa. Ha avuto ragione, lei ha colto il punto. In realtà Achille Lauro non ha usato, ha preferito la tutina color carne. Bruno, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo solo precisare sulla giornalista, perché è stata pagata, ha raccontato un fatto suo, è stato bellissimo, emozionante, eccetera. Però prendevamo una ragazza italiana che ovviamente purtroppo chissà quante ce ne sono. Non veniva ma pagata. Perché no, volevo capire questa differenza, non per voglio. Secondo lei perché la ragazza italiana dove avere più diritto di parlare di un fatto cosmico che riguarda tutti, perché una donna stuprata può essere del Bangladesh come dell'Australia o della Nuova Zelanda. Lei l'ha saputo raccontare bene. Sì, sono d'accordo. Perché doveva fare una scelta discriminatoria? No, vogliamo solo un'italiana. Prima l'italiana. No, non è discriminatorio. No, no. Eh sì, no, è una discriminazione. Non è discriminatorio. No, verso l'italiana. Perché devi dirci italiana per forza? A raccontare la storia. No, non ho detto italiana per forza. Io ho detto un'italiana. Ma Gibraltar parla italiano, qual è il problema? Era comprensibilissima, parla benissimo. È visto il nostro. Per l'amor di Dio, ok. Il problema è il passaporto, c'ha scritto il passaporto, come è nata, sì, il paese dove è nata. No, non ho capito il suo problema, non l'ho capito. Giuro, non l'ho capito, me lo spiega. Io non ho capito perché lei difende una persona così, nessuno dice niente. Non la difendo, sono oggettivo, vuol sapere qual era il problema per lei che ci fosse la Gibraltar invece una ragazza italiana. Per me era indifferente. È venuta a raccontare un fatto, mi perdoni, personale. Pagata, perché se non e ridà questo pagata, ma perché un artista non deve essere pagato? Perché mi sembra sciocco, mi perdoni, mi sembra che abbia usufruito di una cosa che poteva venire a Festival di Sanremo, mettendola allora che venga bene lei, però senza essere retribuita. Perché deve venire retribuita una persona che viene a raccontare un perché fatto? Perché scusa, allora, funziona così, guarda, Bruno, soldi italiani, quindi una straniera è stata pagata con i soldi italiani. Bruno, guardi, lei si faccia un attimo, non mica per niente, si guardi un attimo intorno, il mondo è un po' cambiato, la Gibraltar è stata chiamata, adesso non è che fa il paladino a Gibraltar, non è mai stata nemmeno particolarmente simpatica e sono stato il primo a dire adesso arriva il suo pippone e non è stato un pippone, è stata chiamata, è stato scelto dal direttore artistico che voleva quel tipo di racconto, con quel tipo di persona, che rappresentava un tipo di mondo in cui le donne sono anche particolarmente maltrattate e oltraggiate. Quindi è giusto che venisse lei, era una scelta artistica. E quando ti chiami e ci vieni a fare un lavoro per me, io dico certo, quanto mi dai, giustamente. Poi posso raccontare anche le cose mie. Io ho scritto 3 libri su mio figlio. E giustamente i libri giustamente sono venduti. E giustamente io il mio lavoro voglio che mi sia pagato. Che vuol dire? Perché racconto mio figlio non deve essere pagato. Io racconto la mia vita. Ognuno racconta la sua vita, la sua esperienza. E questo deve avere un prezzo, perché è un lavoro. Non è che fa altri lavori nella vita, fa questo lavoro. È giusto che sia pagata. Mi ritrovo veramente a dover difendere la Gibraltar, cosa che mi ho fatto in vita mia. Stefano, ultimo Stefano, quanto c'è ancora? Minuto, dai Stefano, un minuto al suo punto di vista. E sono già in diretta? Sì, certo, in diretta. Ah, buongiorno, io chiamo da Rimini, ho 58 anni e ho 2 figlie femmine grandi. Uh-huh. E sinceramente mi vergogno come uomo italiano di quelle 2 telefonate di quei 2 uomini di prima. Perché sinceramente non capisco qual è il problema. Una donna stuprata è sempre una donna stuprata. Che Stefano, sia italiana o che sia. Io non mi vergogno, mi vergogno solo delle mie azioni. Delle azioni degli altri sono fatti loro. No, ma però mi vergogno come uomo, perché veramente stiamo raggiungendo una bassezza. Che non la capisco. Sì, però Stefano, guardi, le dico come ragiono io. Io non mi pongo mai a giudice nessuno. Io faccio solo delle domande. Volevo capire esattamente perché quel signore fosse così arrabbiato rispetto che non ci fosse una donna italiana e ci fosse la Gibraltar. Non me l'ha saputo spiegare bene. Ha detto con soldi italiani viene pagata una straniera. Evidentemente deve ancora fare un po' di cammino, ma non dico di civilizzazione, di conoscenza del mondo che sta vivendo, che gli ha dato modo di vivere. Tutto qua. Abbiamo cominciato con Sanremo, abbiamo finito seriamente. Sto veramente invecchiando. Alla prossima!